Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ben ritrovati su Radio 24 e ben ritrovati Ivana Di Martino. Ciao, buona domenica a tutti. Allora, in questa fase dell'anno solitamente davamo inizio alla preparazione delle maratone autunnali, e quest'anno però interrompiamo la tradizione rimanendo comunque ottimisti. Infatti i grandi appuntamenti delle maratone autunnali stanno ad oggi tenendo duro nonostante le complicatissime modalità organizzative, cercando anche con soluzioni creative, diciamo, di mettere su strada in sicurezza la propria gara. Nel frattempo, per chi si allena con regolarità, la difficoltà sta nel mantenere alta la motivazione nonostante la mancanza di eventi e obiettivi utili in cui mettere a frutto, insomma, tutta la preparazione fatta, magari anche solo a volte solo per condividere la propria passione. Oggi quindi partiamo da qui e lo facciamo con il coach Fabio Vedana, bentornato. Ciao a tutti, grazie. E con la nutrizionista Francesca De Rio, ben ritrovata. Ciao, ben ritrovati, buongiorno a tutti. Come stai, Francesca? Bene, grazie. Tu, Silvia, se non lo chiedi a Fabio però si arrabbia. Sì, sì. Come sempre, vero? Fabio, come va? Non mi arrabbio più, ormai mi metto a ruota della ragazza anch'io, e anch'io preferisco stare a ruota di Francesca che vabbè, tua, sì. Come va, Fabio? Bene, bene, sono al mare. Vedi, sempre in vacanza. No, non sono in vacanza, sto facendo una vacanza training camp. Sto organizzando un training camp per degli amatori in Sicilia, quindi sono in un bellissimo resort in Sicilia e sono qui, quindi pronto per la puntata. Si nuota, si pedala e si corre. Sì, e ci si rilassa anche un pochino. Ah, ecco. Fa allora, bene, il connubio vacanza-lavoro secondo me è la scelta migliore. Potendolo fare, sì. Allora Fabio, partiamo da te, ne abbiamo già parlato altre volte, ma come dicono quelli bravi, insomma, ripetita Juvent, come facciamo a tenere alta la motivazione senza obiettivi certi? È la domanda ricorrente, la domanda che ho ricevuto di più in questi ultimi mesi e a cui rispondo sempre mettendo dei micro goal e dando dei micro goal realizzabili. In questa fase il goal più importante è quello di rimanere in salute, sia fisica che mentale, e quindi di utilizzare l'attività fisica, sia la corsa, che la bici, che il nuoto, che la camminata, che altre esperienze di attività motoria che l'estate e la bella stagione ci aiutano ad avere come esempio, ecco, ci danno la possibilità di rimanere in salute e di rinforzare le nostre energie mentali. Poi per quelli più agonisti, naturalmente, l'altro obiettivo è quello di rimanere il più possibile fit e di mantenere il peso. Quindi un altro obiettivo concreto è quello di verificare almeno ogni 10 giorni il proprio peso e di vedere se abbiamo accumulato troppa massa grassa, perché in quel caso poi la ripresa con un obiettivo sportivo agonistico certo, che viene data naturalmente solamente quando ci sarà un calendario di gare definito e confermato, allora a quel punto, se mi ritrovo uno zainetto di massa grassa di 2-3 kg sulle spalle, sicuramente la ripresa, quando comincerò ad allenarmi con ritmi più importanti, più veloci, sarà sicuramente più problematica. Quindi salute e mantenimento del peso. E l'altra cosa è, sfruttiamo questo momento per ampliare più possibile la nostra resistenza organica e quindi tutto ciò che riguarda la resistenza di base e anche le capacità di coordinazione coordinative. È un bello spunto questo per ampliare proprio la gamma che il nostro sistema nervoso centrale, di esercizi che il nostro sistema nervoso centrale è capace di gestire. Anche se ho 50 anni come me, posso imparare un nuovo gesto motorio, posso imparare il padel, lo dico, o il tiro con l'arco, e quindi questo sicuramente è uno stimolo per il sistema nervoso centrale per acquisire delle nuove abilità che secondo me poi ci ritornano anche in quella che è la nostra passione di elezione dal punto di vista sportivo, che in questo caso è la corsa o la bici o il triathlon. Francesca, c'è un radioascoltatore che ci chiede: io posso correre solo a mezzogiorno perché appunto negli altri momenti della giornata lavoro e non posso farlo, quindi come faccio per l'idratazione, nel senso che devo a parte l'acqua è meglio anche i sali minerali? Beh, prima di tutto direi che ci vuole il cappellino in questo periodo, perché per andare a correre alle 12 veramente ci vuole coraggio, secondo me, ed è anche abbastanza sconsigliabile, insomma, andare a fare attività fisica in queste ore così, così calde, in cui i raggi solari sono nella peggiore inclinazione possibile, cioè ce li abbiamo tutti in testa. Però se non si può fare, diciamo, altrimenti, certamente l'idratazione è fondamentale. Ripeto, coprirsi magari la testa e anche gli occhi, cercare di indossare abiti leggeri, quindi il più possibile scoperti, idratarsi, che significa idratarsi prima, cioè per tutto dall'inizio della giornata, quindi bere regolarmente e sì, direi anche magari se si suda tanto integrare dei sali minerali magari subito prima di andare a correre e subito dopo. E ricordiamoci anche che l'acqua è contenuta anche negli alimenti, questo lo dico sempre, quindi preferire, soprattutto in questi giorni che fa caldo, cioè in questo periodo che fa tanto caldo, preferire alimenti freschi rispetto a quelli conservati. Mangiare leggero, perché si fa anche più fatica a digerire, il nostro metabolismo col caldo è relativamente più lento, facciamo più fatica a digerire, ci sentiamo più stanchi, quindi tutta una serie di fattori che conosciamo bene. Una cosa che potrebbe essere utile in questo periodo è anche aggiungere un po' più di sale ai cibi, perché comunque il sodio è il minerale più importante, quello che si perde in maggiore quantità con la sudorazione, perché spesso noi magari prendiamo un integratore a base di magnesio e potassio e non ci interessiamo minimamente del sodio. Invece basterebbe salare un po' i cibi, perché è vero che per la popolazione media il sale fa male, perché ne aggiungiamo troppo, perché ipertensione è una causa, sì, esatto, è causa di ipertensione ed è anche una delle principali cause di morte in Italia in questo momento, l'eccesso di sale nell'alimentazione. Però per gli sportivi il discorso un po' cambia ed è appunto una parte integrante del sudore. Volevo fare una domanda che mi hanno fatto proprio qua durante il camp, proprio riguardo l'uso dei sali, no? Perché se fa molto caldo, quindi cosa faccio? Mi prendo la mia bottiglietta da mezzo litro e ci metto la quantità che è suggerita e aumento un pochino? No. Faccio così, si fa più caldo? No, assolutamente no, perché diciamo tutte le polveri a base di zuccheri e sali, o comunque sali e basta, qualsiasi cosa sia, comunque ogni soluzione che contiene delle particelle ha una concentrazione, e questa deve essere più possibile, diciamo, simile o comunque meno concentrata rispetto a quella del nostro plasma. Si dice che deve essere isotonica o ipotonica, o leggermente ipotonica. Se io vado ad aggiungere una quantità maggiore rispetto a quella consigliata nell'etichetta, in realtà posso creare una soluzione più concentrata e potrebbe crearmi dei problemi intestinali, cioè semplicemente non riesco ad assorbirli, no? E quindi potrei avere dei disturbi intestinali, quindi lo eviterei assolutamente. Anzi, vi dirò di più, che se vogliamo favorire l'idratazione, io consiglio sempre di mettere un po' di meno rispetto a quello che è segnalato nell'etichetta, perché in realtà una soluzione un po' più diluita favorisce l'assorbimento dell'acqua a livello intestinale. E quindi ho detto bene che ho detto, in questo caso è meglio, è uno dei pochi casi in cui meno è meglio. Fabio, parlavamo prima di allenarci al caldo, abbiamo imparato anche grazie ai tuoi consigli che correre con temperature alte poi dilata un po' il nostro recupero, no? Per un allenamento di questo tipo. Sì, hai detto bene, perché sottopone l'organismo a un ulteriore stress, quindi lo stress dato dall'intensità più dello stress dato dall'ambiente. Infatti guarda, proprio qua abbiamo sostenuto con il nostro gruppo d'allenamento delle persone che partecipano a questo training camp, abbiamo fatto un lungo di corsa e siamo arrivati, chi ha fatto un'ora, chi ha fatto 75 minuti, chi ha fatto 90 minuti, e mi sono proprio soffermato sul fatto che come lo stimolo allenante di correre a 28, c'erano quasi 31 gradi quel giorno, con il sole, era il pomeriggio, sul pomeriggio sera, in una strada sterrata senza quindi ombra, perché anche l'ombra favorisce comunque la diminuzione dello stress. Ho proprio ricordato che l'agente stressante per il nostro organismo è proprio l'ambiente in quel caso, oltre alla velocità, allo sterrato, alle ondulazioni, e quindi è fondamentale tenerlo proprio in considerazione come se fosse un aggiuntivo di difficoltà allo stress dell'allenamento stesso. Quindi non pensiamo di fare le stesse intensità che facciamo a temperature ottimali, che so, dei 14 ai 18 gradi, che sono un po' la temperatura ottimale per correre, ma se abbiamo 30 gradi dobbiamo pensare che i ritmi naturalmente diventano più lenti. E poi dobbiamo assolutamente, come ha detto Francesca, coprirci il capo, coprirci il volto con la visiera, perché ci permette di abbassare proprio la sensazione di calore. Francesca, prima hai detto una cosa secondo me importantissima che bisogna ricordare, il fatto di vestirsi in modo leggero, perché io vedo ancora quando vado a correre, anche oggi sul Naviglio, ho visto persone con i pantaloni lunghi e magliette lunghe, che è una pazzia, no? in questo periodo. Ricordiamolo veramente che non serve coprirsi così tanto per dimagrire, cioè non ha assolutamente senso, giusto? Non serve, si perdono liquidi, quindi sicuramente non serve a bruciare il grasso, e soprattutto è pericoloso perché effettivamente non si favorisce la traspirazione ottimale, che serve comunque a raffreddare il nostro corpo, no? Ma in realtà si ostacola, e quindi nei casi più gravi si può anche rischiare il collasso. Eviterei. Francesca, mi collego un po' a questo, perché Silvia di Pesaro ci dice: dopo il lockdown ho iniziato a correre per perdere qualche chilo di troppo, ma non vedo grandi miglioramenti, cosa sbaglio? Se ha iniziato soltanto a correre senza affiancare un'alimentazione corretta, l'errore potrebbe essere quello, nel senso che quando si vuole perdere peso, e in particolare quando si vuole perdere grasso, ovviamente si deve bruciare un po' di più di quello che si introduce, cioè questa è la matematica che sta alla base della dietologia. Quindi è vero che magari la dieta restrittiva non serve a niente, perché comunque crea maggiore stress e quindi può ostacolare la perdita di grasso, però è anche vero che se non si segue una dieta bilanciata e se deve essere un minimo ipocalorica, sicuramente non si perde peso. Quindi magari andare a correre, mangiare di più perché si è andata a correre, ecco, quello non serve a niente. Cioè avrà sicuramente dei lati positivi, che sono quelli di abbassare l'infiammazione o comunque di far bene alla muscolatura, alle articolazioni, eccetera, però magari non si perde peso. Fabio, un ascoltatore, Roberto di Padova, ci chiede: ho comprato una bici per alternare un po' gli allenamenti. Come la posso usare nel modo corretto? Cioè, vanno bene delle lunghe pedalate o devo concentrarmi su altro? Allora, se il nostro ascoltatore è già un podista, quindi già è un amante della corsa, scoprirà che la bicicletta è un ottimo allenamento di sostegno. Cosa vuol dire allenamento di sostegno? Cioè che ci dà la possibilità di ampliare la nostra resistenza di base, tutto quindi il condizionamento organico, quello che abbiamo parlato nell'introduzione proprio oggi. Il consiglio, se non ho mai pedalato e vengo quindi dalla corsa, anche da un'esperienza importante, quindi magari ho già fatto delle mezze maratone, una maratona, quindi sono già abituato ad avere un certo rigore nell'allenamento, il consiglio è all'inizio di usare gradualità e di evitare di fare delle uscite troppo lunghe, ma di adattarci gradualmente al nuovo gesto motorio che facciamo, perché dobbiamo pensare che nella bici l'attività muscolare è di tipo concentrico, mentre nella corsa è di tipo eccentrico, e quindi questo aspetto va in un certo senso adattato. Quindi il consiglio è prendere la bici, iniziare a fare delle uscite su percorsi abbastanza pianeggianti e gradualmente sempre più lunghi, quindi per dare dei numeri, partire da un'ora, un'ora e un quarto, e poi aumentare ogni volta 10-15 minuti. La cosa importante è regolare bene l'altezza della sella, okay, perché se regolo bene l'altezza della sella mi permette di lavorare con i corretti angoli di utilizzo la muscolatura degli arti inferiori. Quindi la sella deve essere, se metto la gamba distesa con il piede nel punto morto inferiore, più o meno devo poter distendere completamente la gamba. Questo è una indicazione proprio pratica che ci evita di fare l'errore di avere la sella troppo bassa, e avendo la sella troppo bassa sovraccarico troppo la parte anteriore della coscia. E l'altra cosa è di contare le RPM, cioè le pedalate al minuto, e anche qua di stare sulle RPM più o meno che dovrebbero essere anche simili a quelli della corsa, quindi stare intorno alle 85 pedalate al minuto, che ci permette di avere quindi una pedalata equilibrata e non eccessivamente forzata. E poi quello appunto di evitare per quanto possiamo all'inizio almeno le salite. Poi una volta che ci siamo adattati, l'adattamento avviene abbastanza velocemente, se ho poi dal punto di vista organico dalla corsa già dei buoni adattamenti, nel giro di una decina di uscite in bicicletta immediatamente mi adatto, e quindi a quel punto lì posso andare a fare degli allenamenti più specifici, e quindi posso introdurre la salita, posso introdurre delle variazioni di ritmo, posso allungare notevolmente la distanza. E l'intensità anche all'inizio la consiglio sempre, deve essere un'intensità di equilibrio respiratorio, cioè devo sempre poter parlare senza difficoltà. Questo mi garantisce che sto lavorando in ambito aerobico e che quindi posso appunto ulteriormente allargare la mia base aerobica, quindi la capacità di usare l'ossigeno per produrre energia e quindi per produrre movimento. Ecco Fabio, un altro ascoltatore invece, Franco di Torino, ci scrive: corro 3 volte a settimana e lo faccio per tenermi in forma, però ogni tanto, insomma, dice, mi annoio. Cosa posso fare per rendere un po' più stimolante l'attività? Introdurre qualcosa di differente, cioè magari fare qualcosa di più specialistico, per esempio fare delle ripetute corte, non so, nel periodo estivo è bello fare magari degli allunghi in salita, ma allunghi in salita intendo allunghi da 20-30 secondi in cui aumento la frequenza di passo e sfruttando la pendenza, che non deve essere enorme, quindi basta una pendenza del 4%, 4-5%, già ci dà degli stimoli di forza importanti, ci aiuta ad usare meglio la spinta a terra del piede e ci dà immediatamente, poi quando ritorniamo in piano, ci dà subito delle belle sensazioni, e quindi avendo delle belle sensazioni siamo più motivati a riprendere a correre, quindi alziamo il nostro livello di soddisfazione, perché comunque noi siamo degli animali per cui, come tutti gli animali, in cui se ho piacere a fare l'azione cerco di ripeterla, e quindi questo potrebbe essere una soluzione. Un'altra cosa che mi viene in mente è per esempio introdurre degli allenamenti di off-road, e quindi andare per esempio, se sono in città, in un parco, se sono fuori città magari in un bosco, e sfruttare il fatto che la temperatura è più fresca, e poi le oscillazioni che naturalmente ci sono nel terreno ci danno delle variazioni di intensità e delle variazioni anche di spinta e di cadenza che rendono il nostro allenamento più stimolante e meno monotono. Francesca, un paio di ascoltatori ci hanno fatto la stessa domanda. Scrivono: perché con il caldo siamo più soggetti ai crampi e perché vengono? Ci sono vari motivi per cui possono venire i crampi, però secondo me il più comune, e questo probabilmente Fabio sarà d'accordo con me, non è tanto la disidratazione, soprattutto se è un crampo che riguarda un punto particolare, quindi per esempio non so, un polpaccio, ma dipende da un mancato adattamento in realtà all'allenamento, quindi magari non ho recuperato bene dall'allenamento precedente, non ho fatto abbastanza stretching, quindi sono molto contratto, quindi è raro. Ho cambiato l'attrezzatura, oppure se sono andato in bici ho sbagliato l'altezza della sella, ecco, queste sono tutte situazioni che potrebbero provocare poi una fatica acuta localizzata che è il crampo. Si parla spesso anche oltre di sali minerali, no? Allo squilibrio idrosalino, che è l'altro elemento importante. In realtà i crampi da squilibrio idrosalino sono un po' più importanti, ecco. Quindi è qualcosa che già riguarda una disidratazione un po' più importante. Però sì, magari potrebbe essere che in questo periodo è più frequente averli perché siamo più disidratati. il minerale che può venire in aiuto in questo caso è il magnesio, che aiuta anche un po' il rilassamento muscolare, quindi può essere utile assumerlo magari la sera prima di andare a dormire o comunque dopo gli allenamenti. Fabio, per chiudere, per chi invece è ottimista e vuole iniziare a preparare una maratona, una mezza maratona, insomma questo è il momento di pensarci, come deve strutturare il suo piano di allenamento partendo insomma da questo periodo? Sì, questo come hai detto tu all'inizio della trasmissione era il momento in cui lanciavamo il nostro percorso insieme, che durava mediamente dalle 10 alle 12 settimane, e quindi sì, questo è il momento giusto, è il momento della costruzione di base, no? Quello che dicevamo, il fatto di ampliare il numero di sedute che possiamo fare, quindi se possiamo fare 3 sedute magari ne mettiamo 4, e poi allungare il tempo per ogni seduta in modo tale che il tempo settimanale progressivamente aumenti, quindi il tempo che corro o i chilometri che corro. E poi è il momento in cui devo dedicarmi ai lavori di forza, cioè cerco di mettere all'interno una seduta, come abbiamo detto, per esempio gli allunghi in salita sono un lavoro di forza specifico, il lavoro di variazione di ritmo naturale nel bosco, nel trail, è un altro stimolo di forza, e poi tutto il lavoro riguardo a ciò che è fuori dalla corsa, quindi a specifico come per esempio l'introduzione della routine di esercizi per il potenziamento dei piedi, della gamba, del core stability e tutto ciò che riguarda la prevenzione, che aumentando il numero di sedute, aumentando l'esposizione di minuti alla corsa, ci permettono di diminuire la possibilità di infortunio e quindi ci permettono di allungare per più settimane possibile la costanza e la consistenza del nostro allenamento. Allora, in chiusura ricordo che su radio24.it, alla pagina di Personal Best, trovate sempre il piano di allenamento del coach Fabio Vedana per preparare una maratona con due livelli differenti, ricordiamo, per arrivare in fondo insomma col sorriso, come diciamo sempre, e uno un po' più livello un po' più avanzato, un po' più sfidante, per chiudere la maratona diciamo in 3 ore e 30 minuti. Sono 14 settimane di preparazione, quindi direi giusta per preparare, incrociando le dita possiamo anche dire, la prossima Venice Marathon. Nel frattempo chiudiamo qui, grazie Fabio. Grazie a voi e buona estate a tutti e buon allenamento e buona giornata. E grazie Francesca. Ciao a tutti, grazie a voi. Noi ci risentiamo domenica prossima con l'ultima puntata di questa stagione di Personal Best, sempre alle 6.30, alle 16.15, poi quando volete ci trovate in podcast. Buona domenica. Buona domenica a tutti. Personal Best. Tutte le puntate sono disponibili su radio24.it. Ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su aruba.it.